abbandonar, abbandonar. Ho risolto, ho risolto. Adorina per pietà. Ho risolto, ho risolto. Adorina per pietà. Vostro danno, vostro danno. Sì, voglio andar. Sì, sì, sì, voglio andar. Che c'è di nuovo? Che mi pare sentirmi un po' alterati. Fateci i nostri conti, per me vuole andar via. Mi vuole abbandonar, Dorina mia. Ma perché mai, oh povero ragazzo? Perché nel duro stato in cui ci ritroviamo è necessario che ci separiamo. Dorina m'ha spiegato i sensi suoi. Ora, signor Giannin, che dite voi? Io dico che... vorrei sposarla? Sì, signore. E poi? E poi? Quando morrà mio padre, che è vecchio ed ammalato, in casa mia vivremo in buono stato. Dite la verità, Dorina mia, mi volete voi bene? Se non amassi, non avrei seguitato i di lui passi. Dunque sta tutto il mal per quel che io sento nel non avere denaro. E vi par poco? E quando in questo luogo vi trovassi un onesto assegnamento, vi porgerei la mano in quel momento. Lasciate fare a me. Falco, vi prego. Caro Falco gentile. Falco garbato. Obbligherete assai. Vi sarò grato. Udite, evvi un riccone che ha nome Don Poppone, il quale, amando assai l'argento e l'oro, cerca sempre trovar qualche tesoro. Basta che un forastier li si presenti e con fracchezzo ostenti l'abilità per tali scavazioni, li leva dalle mani scudi ed obloni. Se non fossi maritato, non so dir cosa farei. No, non so dir cosa farei. Oh, Giannino, fortunato, fortunato che costei si goderà. Costei si gonerà. Oh, davver siete garbato. Oh, davver siete garbato. Mano tanta carità, mano tanta carità. E graziosa, e gentile, non conosco la simile, non conosco la simile. Geloso poverino, è geloso il mio Giannino, è geloso il mio Giannino, e da ridere mi fa, e da ridere mi fa, e da ridere mi fa. Qua soffrire questo dolore, qua soffrire questo dolore. Con la fame, mio signore, con la fame. Per la mia necessità. Ebben, signor consorte, quanto dovremo noi stare in questa locanda? Un po' di flemma, cara contessa mia. Qui non ci voglio star, voglio andar via. La lettera ho mandata al signor Don Pompone, cui siam raccomandati, e saremo da lui forse alloggiati. Ma se mai lui questo Don Pompone ad invitar non manda, dosto voglio partir, cambiar locanda. Perché non siamo noi ben trattati finora? Benissimo, lo so che contentissimo ci sta il signor consorte mio garbato, della bella straniera innamorato. Oh, di chi? Di Dorina? Vi ingannate? Io mi ingannassi si potrebbe dare, ma qui lo torno a dire, non voglio usare. Ecco Cabrinchi torna, oh, si saprà. Bastami che si va di via di qua. Che pazienza, s'inchina Don Pomporne corbelli a Conte Nastri e alla contesa ancora, non potendo per ora venire a riverire alla locanda, a supplicarli manda che si degni passane di lui tetto, esibitor di cor per lo ricetto. Andiam subito al lume, adagio un poco, andar tosto in un loco, senza saper, senza conoscer chi. Dunque andiamo, e sarà quel che sarà. Bastami che si vada via di qua. Vi attacete una volta, andremo sì, vi renderò contenta. Ma fate che gridar, più non vi senta. Pretendono i mariti, esser da noi trattati dolcemente. Si fa niente con le buone, con i vien gridare, beh, avver ragione. Oh, Questo novello imbroglio, alloggiar forastieri, e mi dispiace, non vorrei che stubassero l'operazion vicina, del tesor che cavar de ciò in cantina. Dopo tant'anni e tanti al fin son arrivato, un tesoro trova sicuro e certo, in casa mia, l'ho in casa mia scoperto. Ma i forastieri, Chiantina! Signor, l'amico mandi! Un amico di Roma a cui disgustar non voglio, m'ha mandato in imbroglio. Un conte e una contessa mi son raccomandati, alloggiare ho invintati in casa mia. Fate che tutto preparato sia! Caro signor padrone, è ver che ricco siete, ma se così spendete allegramente, lo stato vostro ridurrà si a niente. Cosa importa? Domani viene le case avrem d'argento e d'oro. Ho scoperto un tesoro. Scoperto? Veramente? Ho al solito trovato con la mente. E quando lo vedrete uscir dalla cantina, la padrona sarà, sarà Chiantina. Sì, fossi vero. Verissimo, lo vedrete a momenti. Ho imparato in un libro a far battenti, finora più di un restai gabbato. Ma sono illuminato ed opro al sicuro. E i tesori trova posso all'oscuro. Poi è invece chi sia vero. E poi, signore, un altro tesoretto di farvi ritrovare, anche io prometto. Dove? Come? Un tesoro voi troverete in me. Onestà, di costanza, amore, sì. Signor Conte, alla nobil contessa o mi m'inchino. Contessa a me? Che non son io Giannino. Alloggiare in mia casa mi chiamo fortunato, la dama illustre e il cavalier garbato. Ci conoscete voi? Certo, l'amico che liete retti a me, i lor signori, ma cena e grado e di sublimi onori. Falco già posto in qualche brutto impegno. E ci nobilitò, ci vuole ingegno. Saran stanchi dal viaggio, che vado là e riposo. Già sono sposa e sposo, onde combattiranno se un solo letto ed una stanza avranno. Questo non è gran mal. No, no, signore, vi prego per favore. Sono avvezza così fin da figliuola. Piacemi nella stanza di star sola. Ma io non ho gran comodo. Codesto poco importa, anderò sola. E lui fuo della porta. Io fuori, signor sì. La signora comanda e vuol così. Oh, signora contessa, perché così crudel con suo marito? Voi non siete istruito per quel ch'io sento dall'usanza nuova. Seguitar la finzion per or mi giova. So ch'io si avessi moglie, notte giorno vorrei starmene in buon amor vicino a lei. Anch'io d'aver son del parere stesso, notte notte e giorno vorrei starne da presso. Quelli che così fanno sappiano lor signori che si chiama mariti seccatori. Libertà, libertà. Basta, per ora taccio. Ma quando poi... Quando poi, quando poi, già vi capisco. Quando verrà quel dì, avrai ti di grazia far così. Sentite, non intento. Ehi, che l'amore è più candido, più puro, vuole il suo chiaro e scuro. E poi convien distinguere della plebe l'amor, come si sa, da quello della nostra nobiltà. Voglio che nobilmente ci trattiamo, o che siamo cospetto, o che non siamo. Casa mia, qual che si vuol, si fa, e lascio a ciascheduno la libertà. Ma, signor favorite, voi non mi conoscete. Eh sì, signore, voi siete il conte Nastri, un cavalier romano che a Napoli sen vien per su di Portol con la contessa sposa. L'amico m'ha informato d'ogni cosa. Oh, gran falco brigone! Discorreremo poi sulla far del tesoro. E tesoro? Io non so di tesori. Io non cavo tesori. E chi va detto che si cavan tesori in casa mia? Quel che mi manda da vossignoria. Non è vero, non è vero, vi replico di no. Io all'amico di Roma lo scriverò. Se si sa del tesoro sarà la mia rovina, lontani li terrò dalla cantina. Dunque voi non volete chi vi aiuti a cavar? Mi meraviglio di dacervi consiglio un tal proposito. O mi vedrete far qualche sproposito. Tesoro, chi va detto, se ne vende per la gola, sì, sì, se ne vende per la gola, ah, mi manca la parola, mi manca la parola, dalla bile con il cuore. La mia casa tutta qui, le mie stanze con le lì, e di qua ve la cucina, casa mia non ha cantina, e tesoro qui non c'è, e tesoro non so perché, non so perché, non so perché. Sta piacendo l'illustrissimo signor Conde, e simpatissimo, non c'è niente in verità, non c'è niente in verità, non c'è niente, niente, niente in verità, non c'è niente, niente, niente in verità. Verità, in verità, in verità. Chi va detto che tesoro se ne mente per la gola, per la gola, per la gola. Ah, mi manca la parola. Ah, mi manca la parola dalla bile con il cuore. La mia casa è tutta qui, le mie stanze e colle lì, e di qua e la cucina, casa mia ma la cantina, e tesoro qui non c'è, e penso non so perché, non so perché. Stia piacendo illustrissimo signor Conte, stimatissimo, non c'è niente in verità, non c'è niente in verità. Detto te tesoro, se ne mente per la gola, se ne mente per la gola, chi va detto te tesoro. La mia casa è tutta qui, le mie stanze e quelle lì, e di qua quella cucina, casa mia non ha cantina, e tesoro qui non c'è, no, qui non c'è, e pensa, non so perché. Non so perché. Stia piacendo l'illustrissimo signor Conte, stimatissimo, non c'è niente in verità, non c'è niente in verità, non c'è niente, niente in verità, non c'è niente, niente in verità, in verità, in verità. So capire, siam restati d'accordo con Falco d'una cosa, ed or ne trovo un'altra bella di carattere nuovo. Che diavolo sarà con questa nobiltà? Certo m'imbroglio assai, che il gentiluomo non l'ho fatto mai. A farlo mi vorrei un po' provare, ma non so da qual parte principiare. Con le dame, madama servitor, di buon cor, all'amor, all'onor della beltà. Non c'ho grazia in verità, non c'ho grazia in verità. Coi signori, riverisco, riverisco, esibisco, m'offerisco, m'offerisco alla nostra autorità. O malissimo anderà, o malissimo anderà, può provar con bassa gente, insolenti, insolenti, non contenti, non contenti, pagherò quando vorrò, quando vorrò. E ho bisogno, via di qua, e ho bisogno, via di qua. Bene va, bene va, l'ho trovata in verità. Bene va, bene va, l'ho trovata in verità. L'ho trovata in verità, l'ho trovata in verità. Con le dame, di madama servitor, di buon cor, all'onor della beltà. Non c'ho grazia in verità, non c'ho grazia in verità. Coi signori, riverisco, mi esibisco, m'offerisco alla malissimo, malissimo, malissimo anderà. Vuo provar con passaggente, insolente, insolente, non va niente, non va niente, pagherò quando vorrò, quando vorrò. E ho bisogno, via di qua, e ho bisogno, via di qua, insolente, insolente, non do niente, non do niente, pagherò, quando vorrò, insolente, insolente, io mi sono, via di qua, io mi sono, via di qua. Bene va, l'ho trovata in verità, in verità. Si può venir? Falco, venite pure. Compatisco di grazia. Lo sapete, vi vedo volentieri. Son venuti da voi due forastieri. Sì, un conte e una contessa che vengono da Roma. Altri? Non altri. Che Dorina e Gianni lo sbagliato abbiano a casa. E chi doveva da me venir? Un giovane di garbo che Giannino s'appella, unito ad una bella, venuti a posto sino di Turchia, per ricercare di vo' signoria. Che vogliono da me? Per quel che intesi a ragiona fra loro, credo varano in cerca d'un tesoro. San tesori cavar? Credo di sì. Fateli venir qui. Io di quelli non sono, che cercan l'altro i fatti, ma ho sentito così per accidenti a dir da quella gente che al signor Don Popone il cielo, il fato, una fortuna grande ha destinato. Thank you. vi precipiti, precipiti sul capo d'oro i fulmini, sul capo d'oro i fulmini. E d'oro una voragine vi possa subissar, il cielo vi precipiti sul capo d'oro i fulmini, sul capo d'oro i fulmini, il cielo vi precipiti. E d'oro una voragine vi possa subissar, il cielo vi precipiti sul capo d'oro i fulmini, e d'oro una voragine vi possa subissar, vi possa subissar, vi possa subissar. Marte, Saturno e Venere, con loro mi tempestino. Marte, Saturno e Venere, con loro mi tempestino. Ed i tesor vi facciano nel giubilo crepar, ed i tesor vi facciano nel giubilo crepar. Facciano nel giubilo crepar, il cielo vi precipiti sul capo d'oro i fulmini, e d'oro una voragine, e d'oro una voragine vi possa subissar, vi possa subissar, vi possa subissar, subissar, subissar. Falco gentil troppo m'onora, io non mi sento di crepar per ora. E questo è il giorno delle seccature, ai torridu forastieri che vi domandano. Riverente Minchino. Oh galantuomo, che siate benvenuto. Serva sua. Giovinetta, io vi saluto. Oh, che incivita! Che trattamento abietto! Si vede che son gente d'intelletto. Signor, siam qui venuti. Sono di già informato, discorreremo insieme quello che più mi preme, che voi con la vostra signorina me come inghiate nella mia cantina. Signor, mi meraviglio, non si fare un tal invito a nostro pari. Nella cantina mia sono i denari. Per chi pesi ci avete? Lo so che siete. Falco m'ha detto tutto. So che per me veniste da lontano. In casa mia non resterete in vano. Spiegatevi, signor, non vi capisco. Sappiate che m'in cantina ma vien gente. Non voglio che sappian quel che passa fra di noi. Andate, andate, parleremo poi. Come? Non vuol che siate in casa mia veduti. Perché? Se conosciuti siete, mi può cantare un qualche intrigo. Ma noi chi siamo? Andate via, vi dico. Ad una dama, a un cavalier. Va bene, so che finge conviene nobiltà in casi tali e signoria, ma vien gente vi dico, andate via. Parto per or, ma si saprà perché, quanto di tutto renderete a me. Un simi trattamento, un simile strappazzo vi fa credere un pazzo. Io son chi sono in grazie dell'amico vi perdono. priva della sua presenza. Faccio a lei riverenza, a lei chiedo perdono, il servitor della contessa io sono. E la contessa a voi fa con rispetto i complimenti suoi. Come graziosa! Parmi innamorato! Se io fossi in altro stato, se io fossi un cavaliere come lei, forse mi esibirei. Con libertà già intendo e la gradisco. Oh, gran bontà! Per dirvela, signore, io son venuta qui e mi trattiene un certo non so che, non posso. So dirlo. È innamorata in me. All'ettarlo conviene il turlulù. Qualche cosa scoprir voglio di più. Di che paese lei? Non ve lo dice l'amico nella lettera. Da Roma dice che vien, ma non se sia romana. Io sono, signor mio, palermitana. Il marito? Spagnolo. E dove vanno, se lecito saperlo? Per il mondo a conoscer la gente di merito, di mente, ch'io venero, ch'io stimo, fra quali cerco Don Poppone il primo. Grazie di tanto onor. Con sua licenza or mi torno subito, vuoi ritrovar Giannino e renderlo avvisato, come a dir se fosse ricercato. Saprebbe dirmi, vo' signoria, dove si trovi la consorte mia? Poc'anzi è stata qui. Se l'illustrissimo signor conte comanda, a richiamarla manderò di viato. Non importa, signor, te ne ho obbligato. Ah, come si conosce in un'occhiata sola, nel signor conte la nazion spagnola. Io spagnolo non sono. No, di dove? Son fiorentino. Avrò inteso male. E la sua dama? E la mia dama, signore, è nata in Macerata. Non è nata in Palermo. Poi, perché? Non la capisco. Qualche imbroglio c'è. Se si può sapere, perché venuti sono in questo nostro stato? Siamo venuti a comprare un marchesato. La signora contessa ha detto non ha così. Che vi disse la dama? Eccola qui. Non vorrei che Giannino m'avesse contraddetto. Qualche imbroglio m'aspetto, ora si saprà. Voglio un poco scoprir la verità. Signora, con licenza, non mi ricordo ben la patria sua. Palermo. Senti lei, signor Toscano. È vero, è vero. Io sono palermitano. Diavolo! Non è lui, non è spagnolo. Egli oriondo di Spagna. Orionda è la contessa di Romagna. Io sono di Macerata. In Palermo allevata, e lieto il suo l'ispano. Ma per educazione sono toscano. E sono qui venuti. Si sa. Già l'ho svelato. Per conoscenza. E per il marchesato. Titolo rispettoso. Che vogliamo comprare? Oh, signor sì. Non è vero, contessa? Bella è così. Vien pochino d'imbroglio, ma tutto creda voglio. Quando trovi che sia la verità, che abbiate il mio favor della bontà. Di ciò siete sicuro? Il signor conte, che io la possa servir, sarò contento. Contento, contentissimo. Non è vero, marito? Sì, sì, è verissimo. Per dubbio di fallire, tutto quel che la vuol mi convientire. Per il merito perché siete ricco e nobile. E per questa sposa amabile, che io mi prego non ora. E per questa sposa amabile, che io mi prego non ora. Obbligato, obbligato per i termini, obbligato, obbligato del buon animo, ma poi tanto per la femmina, non vi state a incomodar, no, non vi state a incomodar. Non ricuso di ricevere le sue grazie graziosissime, e di un uomo di buone vice, sì, di buone vice, non lo voglio disgustar, non lo voglio disgustar. Di grazie carico, non volo stomaco, grazie carico, non volo stomaco. Son cibi teneri, si digiariscono, si digiariscono. Non si esibiscono, che cose leggine, che cose facili da digerir. Signor Conte, una parola. Con licenza, eccomi qua, eccomi qua. Se non facilita, se non s'accomoda, signor soffistico non mangerà. Dice benissimo, non so rispondere, perché è possibile si soffrirà. Don Popone, una parola. Con licenza, eccomi qua, eccomi qua. Quell'occhio favorisca, mi comandi, cosa dice, cosa dice, domani lo domandi, dalla dama lo saprà. Favorisca, cosa vuole, cosa detto, cosa detto. Non si sa, non si sa, no, no, no, non si sa. Questa è poca civiltà, questa è poca civiltà, sino mio, mi meraviglio. Cosa sta? So chi sono, non vorrei troppa licenza. Fatto siete? È un'insolenza. Non badate? Sono arrivo. Siete pazzo? Mi meraviglio, non vorrei troppa licenza. Non badate? Sono arrivo, sono arrivo. Oh, patron mio riverino,